d'amore che cerchi in tutte voi. Oh! la maledetta! Si è messa alla tortura! Alla tortura! Thank you. Che non ho 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.